Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati, buona giornata da Deborah Rosciani. E sì, adesso faremo mettere le cuffie anche al nostro ospite Saverio Fossati, peraltro lo saluto immediatamente. Saverio, ciao, ben trovato, ben ritornato. Buongiorno a tutti. Quando abbiamo o Saverio Fossati o qualche altro collega del Sole 24 Ore che ormai avete imparato a conoscere bene, sapete che il tema che affrontiamo è quello della casa, e oggi c'è un tema molto interessante e per il quale abbiamo avuto molte richieste da parte dei nostri ascoltatori di ritornarci al più presto sull'argomento. Parliamo di un dilemma che affligge un po' da qualche settimana i proprietari di immobili dati in affitto. Cedolare secca sì o no? Che regime di tassazione scegliere? Ricordiamo che la cedolare secca sostituisce l'IRPEF, l'addizionale comunale e regionale, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Al loro posto si pagherà, appunto, per chi vorrà scegliere questa opzione, un'imposta sostitutiva pari al 21% del canone d'affitto, che diventerà il 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad alta densità abitativa. Questa opzione è facoltativa, la scelta spetta naturalmente al locatore. Perché torniamo a parlare di questo tema? Perché si avvicina il 6 giugno, termine entro il quale vanno registrati, anche ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cedolare, i contratti di affitto che sono stati in scadenza nelle ultime settimane, quelli che erano in scadenza dal 7 aprile fino al 6 giugno. Però un'altra domanda che ci facciamo questa mattina, perché è quella che si fanno molti contribuenti, è: per quale tipologia di contribuente è conveniente la nuova tassa forfettaria sul canone, che comunque blocca per tutta la sua durata il contratto di locazione e per tutta la durata del contratto il canone che si può chiedere all'affittuario, Istat compreso? E poi c'è un'altra domanda che molti si fanno, perché anche in questo caso non ne sono state comprese pienamente le conseguenze: cosa succede se i contratti d'affitto non vengono spontaneamente regolarizzati dal proprietario? Allora, con noi stamattina per dare una mano a chi ancora non sa cosa fare e come fare un calcolo di convenienza per cercare di stabilire se sia meglio un regime fiscale piuttosto che un altro, con noi già salutato Saverio Fossati. Poi ringraziamo per essere ritornato con noi Luigi Lovecchio, dottore commercialista esperto di questi temi fiscali per il Sole 24 Ore. Lovecchio, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, come sempre, microfoni aperti agli ascoltatori. Già ne vedo diversi pronti ad intervenire all'800 24 00 24. L'alternativa per interagire con noi, anzi ce ne sono due. La prima è quella di inviarci sms al 349 238 6666 o all'indirizzo mail, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa, prima di partire, perché oggi è una giornata positiva. Allora, siccome molti ascoltatori a volte si lamentano del fatto che quando le giornate sono molto nere in borsa le enfatizziamo tanto, quando sono positive invece un po' meno, allora oggi invece valorizziamo questa seduta sui mercati europei, che vede Francoforte guadagnare ben 2 punti, Parigi più 1,50, Londra in rialzo di 1 punto, Londra più modesta, recupera la seduta di ieri che aveva visto la City chiusa per festività, così come ieri è stata chiusa Wall Street per il Memorial Day. FTSE MIB, Piazza Affari più 1,68%, una giornata molto buona per i titoli del settore bancario, tutti bene, hanno un rialzo vicino ai 3 punti, Mediobanca, Monte dei Paschi, UbiBanca, oltre 2,5 punti per Unicredit, la Popolare di Milano, Intesa San Paolo, che peraltro ha diverse notizie che la riguardano, sta continuando l'aumento di capitale. Ma poi il Sole 24 Ore scrive questa mattina che il gruppo sta valutando la strada migliore con un gruppo di investitori internazionali per valorizzare un portafoglio di 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di euro di crediti da cedere, e quindi un'operazione che appunto porterebbe un ulteriore miglioramento dei rating, dei rating appunto patrimoniali della società. Tra gli altri rialzi segnaliamo quello di STM più 2,28, Finmeccanica più 2,24, 2 punti di rialzo anche abbondanti per Mediolanum e Generali per il Banco Popolare. Segno meno invece per Mediaset, l'unico titolo negativo in Piazza Affari, meno 0,6%, in un mercato che evidentemente penalizza i titoli del Biscione per il risultato elettorale che non è stato, come sapete bene, felice per la coalizione di governo. L'euro sul dollaro 1,44,14, oggi abbiamo buone notizie per quello che riguarda l'euro, nel senso che il mercato oggi privilegia la moneta unica europea perché oggi è un po' più tranquillo il versante greco, e questi sono un po' i temi di oggi. Ci sarebbero tante altre cose da raccontare, ma vi vedo già belli e tonici invece sulla questione della cedolare secca. Riepiloghiamo la questione e poi cominceremo la nostra chiacchierata con i nostri ospiti. Il tempo stringe e per tutti i locatori che stanno prendendo in considerazione l'opportunità dell'ormai famosa cedolare secca sugli affitti, si avvicina il momento di scegliere. È stato fissato al 6 giugno il termine ultimo per definire la modalità di tassazione del canone di affitto. Una scelta che riguarda tutti quei contratti i cui termini di registrazione scadevano dopo il 6 aprile 2011, poiché proprio dal 7 aprile scorso è in vigore la nuova legge, che permette di abbandonare il vecchio sistema, che sommava IRPEF, imposta di registro e altre, preferendo la nuova modalità. Un'unica aliquota forfettaria, fissata al 21% per i contratti a canone libero e al 19% per quelli a canone concordato nelle città ad alta densità abitativa. La decisione va valutata con molta cura, senza dare per scontata la convenienza della cedolare, sulla carta indubbiamente allettante se si tiene conto che le aliquote IRPEF variano tra il 23 e il 43%. Volendo guardare l'altra faccia della medaglia, va ricordato innanzitutto che affidandosi alla nuova normativa, il padrone di casa rinuncia per tutta la durata del contratto a qualsiasi aumento del canone. Sarà quindi necessario mettere sul piatto della bilancia, tra le altre cose, la durata del contratto, i possibili aumenti dell'inflazione e naturalmente il proprio reddito. Sembrano infatti diminuire nettamente i vantaggi per chi ha un basso reddito oppure molti oneri detraibili. Le aliquote IRPEF sono progressive e questo rende il risparmio minimo per le fasce più basse, facendole invece aumentare esponenzialmente per quelle più alte e, di conseguenza, finora più tassate. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, oppure chiamateci, scriveteci al 349 238 6666, o in alternativa, se avete bisogno di scriverci qualcosa di un po' più articolato che non entra in un sms, potete utilizzare salvadanaio@radio24.it. Stavo leggendo, perché lo avevo tenuto da parte, un articolo apparso su Repubblica mercoledì 11 maggio, dove si raccontava, titolava così questo pezzo, era un pezzo relativo alla cronaca di Milano: affitti e corsa la cedolare secca, uffici in tilt per le registrazioni. L'Agenzia delle Entrate del posto, almeno alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate, consentono solo 80 prenotazioni al giorno, poi il sistema si blocca. Però mi spiegava Saverio Fossati che forse non è stato poi così grande il disagio, ma insomma, per fare queste registrazioni dei contratti d'affitto si va solo all'Agenzia delle Entrate. No, anzi, la grandissima maggioranza degli interessati potrà utilizzare il modello Siria telematico, che nella nuova versione è già disponibile da alcuni giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e fare l'invio telematico. Unica seccatura è che l'invio telematico è concesso solo a chi è già abilitato, cioè al PIN code dell'Agenzia delle Entrate, per fare il quale ci vuole comunque qualche giorno, e quindi forse farlo adesso è un po' tardi, se il termine è comunque il 6 di giugno, e quindi ci si può però rivolgere tranquillamente a qualsiasi commercialista o qualsiasi professionista abilitato alla trasmissione telematica della documentazione dell'Agenzia delle Entrate. Credo che con una parcella minima si possa adempiere a questa formalità. Peraltro il modello Siri è abbastanza semplice da compilare online, l'abbiamo anche spiegato, abbiamo fatto una guida il 12 di aprile, in cui c'era già tutto il modello compilato con gli esempi, ma non richiede particolare impegno. Il modello invece cartaceo, quello che poi ha portato alla formazione di un po' di code nei giorni scorsi qui a Milano, mentre invece ci risulta che nelle altre città non si sia verificato questo inconveniente, il cosiddetto modello 69, e riguarda le persone che hanno delle situazioni particolari. Per esempio, quando ci sono più di 3 proprietari, allora bisogna usare il modello 69. È forse il caso più frequente, però devo dire che non sono moltissimi i casi in cui l'immobile è posseduto da più di 3 proprietari. Può capitare con le comunioni ereditarie, effettivamente può capitare, però nelle situazioni normali no, e quindi le situazioni normali useranno tutti tranquillamente il modello Siri telematico. Allora, un altro aspetto che volevo affrontare con Luigi Lovecchio era relativo ad alcuni chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto diffondere in questi giorni. Credo che però ancora questi chiarimenti non siano arrivati. Quindi, Lovecchio, quali sono ancora le questioni da definire meglio con i contribuenti che devono fare questa scelta, anche se ormai il tempo corre, il 6 giugno è davvero alle porte? Questo perché lo racconto magari anche qualche aneddoto relativo al nostro dietro le quinte. Noi volevamo fare questa trasmissione già settimana scorsa, tra giovedì e venerdì, però proprio con Luigi ci siamo confrontati e ci siamo detti magari questo nuovo disciplinare da parte dell'Agenzia delle Entrate viene diffuso. Così non è stato, perché le uniche cose che l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere nei giorni scorsi sono stati i codici tributo da utilizzare appunto nel modello F24 per effettuare i versamenti nei prossimi giorni. Lovecchio. Sì, infatti il problema è che è evidente che l'Agenzia delle Entrate è in ritardo, è in difficoltà, questo mi sembra anche abbastanza chiaro e comprensibile, ed è in ritardo perché la scadenza del 6 giugno è molto a ridosso, quindi è singolare che si possa già pagare perché sono stati approvati i codici tributi, però le regole per calcolare quello che si deve pagare non sono ancora chiarissime. Ecco, quindi che cosa va chiarito ancora? Ma ce ne sono tantissime di casi che devono essere chiariti. Io partirei, diciamo, da quello più clamoroso, cioè quello più urgente, quello di dichiarare, accertare una volta per tutte se l'opzione per questa imposta sostitutiva, per questa cedolare, copre l'anno solare, quindi dall'1/1 al 31/12 di ciascun anno, oppure l'annualità contrattuale, che invece può andare, a seconda di quando viene stipulato il contratto, da un mese ad un altro mese, per esempio da marzo a febbraio, da maggio ad aprile. Ecco, individuare già questo elemento è fondamentale, cioè se io opto per questa cedolare, posso sapere se questa opzione, qual è il periodo temporale coperto da questa opzione? E questo mi sembra uno dei primi casi, delle prime questioni da chiarire. E poi ne abbiamo individuate tantissime altre, che abbiamo fatto dei casi con il Sole 24 Ore, qui ricordo per esempio il caso degli immobili condominiali, cioè quelli che appartengono ai condomini. In caso di affitto di unità immobiliare condominiale è possibile optare per questa imposta? E qui ci siamo posti dei dubbi. Abbiamo fatto il caso dell'inquilino moroso, anche, ho visto. Prego? Anche dell'inquilino moroso. Dell'inquilino moroso, ma insomma l'ipotesi se io devo dichiarare comunque il canone di affitto anche se l'inquilino non mi paga, l'ipotesi del locatore che non coincide con il proprietario, anche questa è un'ipotesi abbastanza diffusa. Adesso non mi riferisco al caso più estremo in cui il locatore non vanta alcun diritto sull'immobile, per esempio il comodatario, ma un caso molto più diffuso, tre fratelli con proprietari, uno dei fratelli loca l'immobile a un terzo. In questo caso chi esercita l'opzione, come la esercita, in che modi? Ma ne potremmo fare tantissime di ipotesi. E allora speriamo che nel giro di poche ore, a questo punto, questi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate possano arrivare. Adesso noi ci muoveremo solamente con le notizie che abbiamo già e che possono essere date per certe, per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Adesso andiamo in pausa, poi è pronto Gianfranco da Trento, che ci fa proprio un caso molto semplice che noi potremo utilizzare, proprio in genere definisco situazioni come questa un assist perfetto per noi, per così definire un po' meglio anche una casistica generale di calcoli di convenienza, come si fa effettivamente a fare un calcolo relativamente alla propria situazione e stabilire se è meglio optare per la cedolare secca o se appunto mantenere il tradizionale regime IRPEF. Salvo Tanaio oggi torna ad occuparsi del tema della cedolare secca, perché c'è tempo fino al 6 giugno per chi ha avuto i contratti in scadenza di recente, per il loro rinnovo appunto hanno tempo questi proprietari di immobili di scegliere se optare per questo regime appunto fiscale, quindi pagare un'aliquota forfettaria, oppure mantenere il vecchio regime, quindi pagare appunto l'IRPEF e quindi non approfittare appunto di questa opportunità. E si tratta anche di fare una valutazione di convenienza, si tratta proprio di un'opportunità conveniente per tutti i contribuenti che danno in affitto l'immobile di cui sono proprietari o meno. Quali sono i criteri per poterlo stabilire? Noi, prendendo a spunto alcuni casi di alcuni ascoltatori, appunto cercheremo di darvi qualche indicazione su questo. Però c'è un ascoltatore, Saverio Fossati, che al 349-238-6666 ci racconta che il suo commercialista, a cui ha appena chiesto, dice che la scelta per la cedolare va fatta entro il 6 luglio. E allora chiariamo subito i termini intanto della questione. Entro il 6 luglio si paga l'acconto se si opta per la cedolare secca, ma entro il 6 giugno va fatta la scelta. Sì, ecco. Esatto, cioè il 6 giugno è questo termine che è stato fissato un po' particolare per tutti i contratti che avevano la scadenza tra il 7 aprile dopo il 7 aprile, diciamo, no? Perché siccome c'era molta confusione su questo aspetto della cedolare e ogni anno c'è da pagare l'imposta di registro, ma ogni 4 anni scatta questo problema della proroga, per poter optare, e l'opzione riguarda appunto, può essere fatta annualmente, l'opzione per la cedolare, cioè si può cambiare idea ogni anno. Allora è stato stabilito questo calendario un po' particolare, al quale si è sovrapposto la prima scadenza dell'acconto per la cedolare. Siccome siamo nel 2011, l'acconto per il 2011 va pagato nel 2011 e quindi questa data qui del 6 luglio riguarda proprio il pagamento dell'acconto, non la registrazione del contratto o l'opzione per la cedolare, che sono due cose differenti. Cioè pagando l'acconto non si fa l'opzione per la cedolare in automatico, quella è un'altra cosa, è un'altra pratica. Ecco, naturalmente sono legate. Chi paga l'acconto è evidentemente evidente che ha fatto la scelta. Avrà già scelto, ma la deve esprimere in altra sede. Per questo ci sono questi due termini. Il termine del 6 luglio riguarda il pagamento dell'acconto, che è l'85% dei canoni che presumibilmente si incasseranno nel corso del 2011. Ricordiamo che parliamo di canoni veri e propri, perché siccome il meccanismo è quello dell'IRPEF, parliamo dei canoni che sono stati stabiliti nel contratto, anche se non vengono pagati, e presumibilmente funzionerà così anche per la cedolare, a meno che non vengano, non ci sia una convalida di sfratto per morosità. Solamente da quel momento in avanti, dalla convalida dello sfratto per morosità, si può evitare di pagare le tasse sui canoni. Quindi fino a quel momento si paga sempre. Siccome siamo nel 2011 e probabilmente i contratti sono in corso, chi opta per la cedolare è perché non ha un procedimento di sfratto per morosità in corso. Ecco, questo discorso comunque non dovrebbe in linea di massima riguardare i cedolaristi. I cedolaristi, abbiamo coniato anche questo nuovo termine. Magari adesso lasciamo da parte solo per qualche istante i casi estremi e andiamo invece alle situazioni più regolari. E chi ancora sta così un po' in balia di questo dilemma, in questo conflitto, cerchiamo di capire quali strumenti gli possiamo dare per decidere se optare per la cedolare secca o mantenere il regime tradizionale. Franco da Trento, buongiorno a lei. Franco, sì, Franco, buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti quanti. Ci dica tutto. Senta, il problema mio appunto riguarda proprio questo. Io contratto di affitto, regolarmente registrato eccetera per intero, libero, che mi scade praticamente, cioè per 4 anni, ci sono altri 2 anni diciamo per arrivare alla scadenza dei 4 anni, però il primo giugno è stata fatta la registrazione. Per l'anno passato chiaramente ho pagato con l'IRPEF inserendolo nel reddito praticamente. Per il prossimo anno vorrei optare per questo, perché ritengo, perché lo chiedevo anche poi dopo, le dirò in base al reddito la convenienza, ritengo di sì. Per quanto riguarda l'imposta, volevo sapere adesso al primo di giugno, siccome facevo la registrazione annuale pagando l'imposta di registro, questa imposta penso non la devo pagare, da quello che ho sentito diciamo che ha detto anche poco fa l'esperto. Per quanto riguarda invece il resto, praticamente il reddito, sul reddito di 80.000 euro circa, quest'anno io pagherò anche l'acconto di novembre sull'IRPEF. Sì. Ora, se opto per la cedolare secca, devo pagare l'acconto dell'85%? Allora, aspetti prima. Lì, sì. Questo come prima, diciamo, domanda. E per quanto riguarda, vabbè, l'imposta di registro è quello chiarito, che penso non è da... Non deve andarla a pagare, a meno che però lei la scelta deve farla, deve compilare o il modello Siria sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure rivolgersi ad un intermediario franco e quindi fare l'opzione concreta di scelta. Cioè non è una cosa che lei stabilisce così mentalmente, non è che può dire non pago l'imposta di registro domani visto che va a scadenza, e quindi già con il fatto di non averlo fatto implica che automaticamente ha scelto la cedolare, capito? Quindi lo devo comunicare ugualmente. Certamente, certamente. Sul modulo. Aspetti lì, Franco. Allora andiamo a Luigi Lovecchio, che mi aiuta intanto a capire, come dire, passo dopo passo, che cosa deve fare Franco per mettersi in regola in questa sua situazione. Allora, già qui, insomma, da quello che ci stiamo dicendo fra di noi emergono alcuni aspetti critici. Quello che scade il 6 di giugno, testualmente, sono solo ed esclusivamente le opzioni che si vogliono fare o in sede di prima registrazione del contratto o in sede di proroga o rinnovo tacito del contratto. E già Franco non è in questa casistica, perché lui è nel bel mezzo del contratto. Ecco, mentre a mio avviso, per come è scritta, e quindi devo per forza usare un po' di cautela per le ragioni che credo abbiamo chiarito all'inizio, in questo regime transitorio non ci sono le ipotesi in cui io devo semplicemente pagare il rinnovo annuale dell'imposta di registro. Mm. Sono due cose diverse. Una cosa è se io ho un contratto che stipulo oggi e che devo andare a registrare, questa è la prima registrazione. Altro è il contratto per il quale i primi 4 anni mi scadono in questo periodo di interregno, per i quali devo andare a registrare la proroga, rinnovo tacito. Secondo noi non c'è differenza tra proroga e rinnovo tacito. Queste due ipotesi sono accomunate nella norma transitoria, nel senso che se la prima registrazione o il rinnovo o proroga scadono nel periodo fra il 7 aprile e il 6 giugno, vi è una proroga al 6 giugno e dentro quella data io devo optare per la cedolare. Viceversa, in tutte le ipotesi in cui io devo pagare l'imposta di registro annuale, per esempio a giugno, Franco dovrebbe farlo domani. 1° giugno, bisogna vedere se questa è la scadenza, oppure è il mese di giugno, per capirci. Quindi nell'ipotesi in cui io ho una scadenza che devo rispettare e che è oltre il 6 di giugno, per esempio ho l'annualità contrattuale che mi scade il 31 maggio, entro il mese di giugno io devo effettuare il pagamento, 30 giorni successivi, devo effettuare il pagamento dell'imposta di registro annuale. In questa prima ipotesi il termine del 6 giugno non esiste. Non esiste nemmeno il termine della fine di giugno, siamo nell'ipotesi in cui c'è un contratto in corso al 7 aprile 2011 per il quale non c'è nessuna scadenza di quelle rilevanti che interviene nel periodo tra il 7 aprile e il 6 giugno. L'opzione si fa nel modello unico del 2012 per il 2011. Ah. Ecco perché il commercialista di quell'altro signore che voi avete citato ha detto: ma come, la scadenza è il 6 luglio che io devo pagare l'acconto? Forse quel commercialista non aveva, equivocato, forse aveva davanti a sé una casistica che non rientra tra quelle che scadono il 6 di giugno. L'esempio è quello che vi ho fatto io: contratto in corso al 7 di aprile, annualità che scade per esempio al 30 giugno, annualità contrattuale che scade al 30 giugno, entro il 30 giugno io devo effettuare il pagamento dell'imposta di registro annuale, quindi non è prima registrazione, non è proroga, non è rinnovo, è un'ipotesi in cui il 6 giugno è una data che per me non significa assolutamente nulla. Mm. Dopo invece arriviamo a questo caso intermedio. Questo caso intermedio è l'ipotesi in cui nel periodo di interregno, quindi tra 7 aprile e 6 giugno, mi scade non la prima registrazione, non la proroga o il rinnovo tacito, uscito, mi scade il pagamento dell'imposta di registro annuale. Allora, qui devo, rilevo dal testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 di aprile che in questo caso, in sede di pagamento della semplice imposta di registro annuale, non devo effettuare nulla, non devo manifestare nemmeno una opzione. Rientro nel caso in cui al 7 aprile c'è un contratto in corso e l'opzione la vado a fare nel modello unico 2012 per il 2011. Dopodiché, se uno per cautela, considerando la totale assenza di indicazioni delle entrate, che ripeto è singolare, speriamo venga colmata entro un poco. Insomma, è singolare che mi si dice come posso pagare, però non mi si spiega esattamente come cavolo faccio a fare i conti. Però questo è un altro paio di maniche. Nella totale assenza di chiarimenti, se io mi ritrovo con un'annualità contrattuale scadente fra il 7 aprile e il 6 giugno, dovrei pagare l'imposta di registro annuale. Ripeto, a stretto rigore, secondo me questo signore non dovrebbe far nulla, dovrebbe attendere il modello unico 2012. Quindi è autorizzato a non versare l'acconto. Ecco. Però se vuole cautelarsi, vista l'assenza di qualunque indicazione, una strada potrebbe essere quella di presentare il modello 69, perché il modello Siria si presenta solo ed unicamente in sede di prima registrazione del contratto. Tutti gli eventi successivi devono essere denunciati con il modello 69. Allora, per prudenza uno potrebbe dire: presento il modello 69 comunque entro la data del 6 giugno, con questo modello 69 non pago l'imposta di registro domani e comunico, c'è una casellina che va barrata, comunico l'opzione per la cedolare, ma ripeto, solo in via cautelativa e perché mancano delle istruzioni ufficiali. È come se il nostro ascoltatore di Trento facesse una sorta di autocertificazione rispetto alla decisione che vuole prendere e soprattutto si mette al riparo del fatto che domani non versa l'imposta di registro perché ha deciso per l'opzione della cedolare secca, ma non può esprimerla attraverso questa scadenza appunto del 6 giugno. Mi fa male la testa, Saverio. Aspetta un attimo, prendiamoci una pausa, andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, un attimo solo. Senza naturalmente nulla a togliere alla puntualità della spiegazione di Luigi Lovecchio, molto, molto articolata, stavamo cercando di sintetizzare quello che può fare Franco da Trento con Saverio Fossati per capire. No, perché io non ho capito a questo punto. Lui può evitare domani di versare l'imposta di registro attraverso la compilazione del modello 69, chiamiamolo così, può già anticipare qual è il regime che preferisce, ma l'acconto entro il 6 luglio lo deve pagare il 6 luglio? Allora, deve pagare l'acconto della cedolare se ha scelto la cedolare, per forza lo deve pagare. Il problema è l'intreccio con l'IRPEF, come abbiamo scritto tante volte sul giornale, perché sempre in assenza di questa benedettissima circolare che magari desse qualche indicazione per questi casi che sono quelli più numerosi, in teoria uno non dovrebbe pagare l'acconto IRPEF relativo a quei canoni. Posto che non è ancora stato chiarito se la cedolare vale per il periodo di imposta o per l'annualità contrattuale, l'anno solare o contrattuale, come è il caso appunto del nostro ascoltatore, che in teoria per lui va da giugno a giugno, da maggio a giugno. Comunque ipotizziamo che coincida con il periodo di imposta, ebbene, allora l'IRPEF non andrebbe pagata. Come si fa a non pagare questo conto IRPEF? Bisognerebbe calcolare esattamente quanto sono i canoni che, sui quali si va ad applicare l'IRPEF, sottrarli dall'importo su cui si calcola l'acconto IRPEF e pagare tranquillamente l'acconto IRPEF senza questi canoni. Però che cosa succede? Che quando si paga l'acconto IRPEF basandosi semplicemente sull'imposta pagata nell'anno precedente, nessuno ti può dire nulla, anche se poi il saldo è ovviamente diverso. Quando invece ti vuoi fare da te il tuo conto, devi essere matematicamente certo che poi sia questo il tuo reddito IRPEF. Perché lo dico? Perché se per caso una persona, normale stipendiato, più che ha lo stipendio più il suo reddito sì, reddito del canone di coazione, poi per caso nel corso del 2011, ipotizziamo a ottobre, fa una collaborazione occasionale da 5.000 euro, quella collaborazione occasionale adesso non la può sapere, non la può conoscere, certo, non può ipotizzare quale sia l'acconto da pagare su quella collaborazione occasionale. Quindi risulterà che l'acconto che ha pagato adesso, al netto dei canoni, è comunque inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare. Lo so che è assurdo, ma proprio per semplificare questa ipotesi, la legge stabilisce che tu puoi pagare semplicemente basandoti su quello che hai pagato l'anno scorso. Ma se da quello che hai pagato l'anno scorso ti tiri via i canoni, non è più quello che hai pagato l'anno scorso. Non c'è nessuna possibilità di compensazione, quindi, successiva. E quindi cosa suggeriva? Mi sembra proprio lo stesso Luigi Lovecchio in un articolo sul Sole, di pagare comunque l'acconto IRPEF e poi mandarlo a compensazione a credito l'anno successivo, o nel 730 o nel 730, ormai è tardi, nel modello unico. Va a compensazione e quindi entra nel gioco generale delle imposte, per cui lo si recupera. Quindi si paga doppio, però fra appunto un anno lo si recupera. È forse la soluzione meno rischiosa. E poi il 6 luglio si paga l'85% dei canoni relativamente alla cedolare. Mamma mia! Adesso capisco perché ci avete chiesto con grande insistenza di ritornare sull'argomento. Non so se stamattina vi abbiamo chiarito le idee, ma la questione è veramente... Sì, Saverio. Ecco, vorrei ricordare che c'è, sì, che c'è una bella guida online, peraltro importante. Sul sito del Sole. Costa, mi sembra pochissimo, 4 euro. La si scarica tutta, ci sono anche i modelli di compilazione, dei calcoli di esempio e anche, ma questo è comunque invece mi pare gratuito, aperto a tutti, il sistemino, il programmino per calcolare la convenienza della cedolare, poi magari ne parliamo. Sì, ne parliamo, ci rimangono per la verità pochissimi minuti, ma prendiamo un altro caso, quello di Mario da Gallarate, allora proprio per andare sul tema del come effettuare il calcolo di convenienza. Mauro da Gallarate, Mario, buongiorno. Buongiorno, la domanda che volevo fare era questa: io ho un reddito superiore a 30.000 euro, volevo capire se c'è la convenienza appunto scegliendo la cedolare secca oppure no, ecco. Che poi... tipo di contratto ha Mario? È concordato, un contratto concordato. E un'altra domanda che volevo fare, perché ho seguito quello che avete detto, io avevo fatto la domanda tramite internet, tramite Siria. Sì. Se qualora io voglio disdire, perché mi sembra abbastanza tutto complicato e forse ho fatto già dei pasticci, volevo capire, posso disdire o come devo comportarmi? Ah, Mario, grazie. Insomma, pure se è diventato prigioniero del software dell'Agenzia delle Entrate per tutta la sua vita. Luigi Lovecchio, allora, ci ha spiegato i due parametri fondamentali per la scelta dell'opzione di un regime piuttosto che dell'altro, ci ha raccontato il nostro ascoltatore di Gallarate qual è il suo reddito lordo complessivo e poi il fatto che ha un reddito lordo da complessivo, non quello da locazione, immagino, che altrimenti darebbe in affitto un bel villone il nostro ascoltatore, e il contratto è il tipo concordato, Lovecchio. Vabbè, insomma, le variabili, io francamente su questo non mi esprimo, nel senso che le variabili per fare il calcolo della convenienza sono numerose. Esatto, non ci sono solamente queste due, reddito lordo e il tipo di contratto che ha fatto sottoscrivere all'affittuario. Bisogna vedere gli oneri che prevede di avere nel 2011, bisogna vedere le detrazioni, se in qualche modo sono incise da questi calcoli. Insomma, il calcolo medio che è stato fatto sul quotidiano tempo fa e che si era individuata l'asticella per i contratti a canone concordato intorno ai 28.000 euro, per cui se si superavano i 28.000 euro la convenienza alla cedolare per i contratti a canone concordato, ripeto, esisteva. Però ecco, io francamente sono dell'idea che bisogna evitare qualunque pacchetto preconfezionato, cioè a occhio se io guadagno X mi conviene o non mi conviene, si deve guardare singolarmente la situazione del contribuente, vedere le diverse variabili che peraltro possono modificarsi dal 2010 al 2011. Infatti, come dicevamo prima con Saverio, infatti adesso, a parte il fatto che può arrivare una collaborazione improvvisa sul lavoro, ma ci possono essere tante altre cose, non so, magari spese sanitarie, speriamo di no, improvviso, tanti altri oneri che un nucleo familiare deve sostenere, quelle chiaramente poi vanno ad incidere anche sull'IRPEF, no? Sì, esatto. Invece l'altra questione è molto interessante e credo che noi ne prenderemo spunto per farci magari qualche pezzettino sul Sole, perché la prima volta, ovviamente trattandosi di prelievo di nuovissima istituzione, la prima volta che viene posto il quesito ho optato per la cedolare e ci ho ripensato. Ora, il diritto di recesso, insomma, da cedolare. Ecco, io ritengo a stretto rigore di legge che la revoca dell'opzione debba essere consentita entro il 6 di giugno, cioè se io entro il 6 giugno posso optare, entro il 6 giugno posso revocare l'opzione perché sono ancora in termini. Però la domanda che, alla quale io francamente non saprei rispondere da un punto di vista proprio tecnicamente ineccepibile, come la revoco l'opzione? Perché nella norma non c'è nulla, il modello Siria serve solo per optare, la norma, il provvedimento delle entrate, quando parla del 7 di aprile, quando parla della revoca dell'opzione, demanda ad un successivo provvedimento attuativo l'individuazione della modalità della revoca. Quindi io forse tenterei di fare una semplice letterina scritta all'Agenzia delle Entrate dicendo: signori, vi ho mandato Siria con questa trasmissione telematica, intendo, ci ho ripensato, intendo revocare l'opzione per la cedolare. Mettiamola così, Luigi, c'è un'altra questione da affrontare tra tutte quelle che avete già sollevato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Speriamo che in questo vademecum, che ci aspettiamo da un momento all'altro, si ponga anche questo tema, come ritornare indietro rispetto a questo regime della cedolare secca, se lo si è prescelto, ma si è poi fatto nel frattempo il famoso calcolo di convenienza, abbiamo stabilito che questa opzione non c'è più conveniente in base al nostro regime fiscale e quindi voglio tornare indietro. Io vi ringrazio per essere stati con noi, sono assolutamente certa che gli amici dell'ufficio stampa dell'Agenzia delle Entrate ci hanno ascoltato, per cui solleciteranno i vertici a diramare questo famoso vademecum che tutti i professionisti anche aspettano per aiutare i propri clienti a fare appunto per aiutarli chiaramente a scegliere un'opzione piuttosto che l'altra. Grazie a Saverio Fossati, a Luigi Lovecchio per essere stati con noi, magari entro il 6 giugno ci ritorniamo un'altra volta sull'argomento. Nel frattempo noi ci risentiamo domani, buona giornata a tutti.